24 mattino. Buongiorno. Renzi ormai somiglia sempre più a Berlusconi, di cui insomma 9 prescrizioni hanno fatto comodo. Nel 2015 diceva che voleva abolirla la prescrizione, ora invece ha cambiato idea. Cambia idea molto velocemente. Attenzione a sottovalutare i Novax. Prima o poi spunteranno con la loro grande teoria, tipo virus immesso di proposito nell'ambiente per poter vendere i vaccini da Big Pharma, ovviamente, perché domina il mondo. Virus ovviamente sintetizzato in laboratorio. Primo Spezia, cosa c'entrano i Novax col coronavirus? Secondo, i Novax non si sentono perché siete voi che non date voce. Voi state dando voce al coronavirus. Si vede che vi fa comodo dare voce al coronavirus. Telegiornali, testate giornalistiche, radio, il coronavirus! Oh, dove il secondo WhatsApp sul coronavirus è di fatto quasi un po' sotto traccia la riprova di quello che diceva prima. Parte la teoria del complottone. Il complottone. Oh, e ai Novax non diamo voce per una scelta precisa. Non perché siano depositari di chissà quali verità nascoste, ma perché non sanno di cosa parlano. O qualcuno non gliel'ha spiegato bene. Le 7:21 minuti, la seconda parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Come sempre, prima di tutto, è sempre il 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp, anche audio. Fate sentire la vostra voce, anche se siete Novax, Però non è detto che le mandiamo in onda. Allora, le prime pagine dei quotidiani. Il Messaggero, lotta al virus, svolta a Roma, il titolo di apertura, appunto sul team di donne dello Spallanzani che ha isolato il morbo. Le ricercatrici italiane, così abbiamo svelato i segreti del coronavirus, è il titolo della Stampa. La Repubblica apre con un'intervista politica a Umberto Bossi, il vecchio Bossi, caro Salvini, così sbagli tutto. Il padre della Lega dice: il nazionalismo ci fa perdere, se vai con l'estrema destra resti solo, il Nord vuole una voce. Ora l'Italia cerca la cura, è il titolo tra virgolette del Corriere della Sera sull'annuncio dello Spallanzani. Corriere della Sera, che a proposito di sport va dato atto, è tra i pochi a mettere come foto di prima pagina e come notizia sportiva più importante a centro pagina Federica Brignone e Sofia Goggia, prima e seconda del Super G di Sochi. La Nazione, il quotidiano nazionale, l'apertura è: ucciso un pedone ogni 16 ore. E poi sì, anche il coronavirus. Antivirus Italia è il titolo del giornale. A Roma in 48 ore trovano il virus, è il titolo di Libero. Renzi lavora per Salvini, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Il patto dei due Matteo, d'accordo su tutto, prescrizione, regionali e Verdini. La Verità, la Raggi sbaglia data su Roma Capitale e ci casca persino Papa Francesco. Oggi parte la festa per i 150 anni dell'elezione della città, peccato che la legge risalga al 1871, quindi 150 anni cadono l'anno prossimo. La Gazzetta dello Sport, bomberissimi, Ronaldo, Lukaku e Immobile sono doppiette da scudetto. E poi sì, c'è anche spazio in testa al giornale per la Valanga Rosa, Brignone da favola, risorge la Goggia. Iniziamo come sempre da qualcosa di laterale che troviamo sui giornali, insomma non proprio le parti centrali di questa rassegna stampa, sulle quali arriveremo più avanti con Paolo Mieli, sia per la parte politica sia per la parte che riguarda il coronavirus, anche se un po' di spazio lo troveremo anche qua in questa prima parte. E fatemi iniziare dal Corriere della Sera, pagina 19, che ci racconta di un fenomeno e di un problema. Le droghe pesanti da adolescenti. Con l'eroina si inizia a 15 anni. È il racconto di Gianni Santucci a pagina 19, appunto, del Corriere della Sera, che ci porta su un problema che poi qua ai microfoni di 24 mattino abbiamo affrontato più di una volta. Il percorso fino a qualche anno fa nella maggioranza dei casi era più graduale, dilatato, distribuito su un periodo più lungo, di qualche anno, almeno 4-5, ora si è appiattito a tempi strettissimi e non è quasi neppure più un percorso, spesso è un solo passaggio, un salto. Come la ragazzina che ha fumato cannabis alle scuole medie in prima superiore su proposta di una compagna, un giorno ha iniziato con l'eroina. A 15 anni era già una tossica. Qual è il tema? Il tema appunto è la dipendenza che si fa strada, la dipendenza da droghe pesanti che si fa strada tra i ragazzi più giovani. Racconta Santucci che dalle 1596 overdose mortali del 96 i morti per droga in Italia erano scesi di anno in anno fino ai 268 del 2016, poi hanno ripreso a salire, 294 nel 2017, 334 nel 2018. L'aumento è collegato appunto alla ripresa del consumo di eroina. La più recente ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR stima che 28.000 studenti abbiano consumato eroina almeno una volta nel 2018. Ma le statistiche raccontano solo una parte di un disastro sociale in incubazione. Per capire dove siamo oggi bisogna guardare al passato. Antonio Boschini la storia la conosce fin dall'inizio e siamo alla comunità di San Patrignano. Antonio Boschini è il responsabile. Da metà anni 70, racconta, per tutti gli 80 c'era una sorta di rogoredo diffusa in ogni parte d'Italia. Una generazione è stata decimata dalle overdose e dalle malattie collegate all'uso di eroina. L'effetto della droga si vedeva nella trasformazione fisica dei ragazzi. In quell'epoca a San Patrignano entravano solo ragazzi con dipendenza da eroina. Poi lentamente il consumo di droga è cambiato e quasi per una ventina d'anni i percorsi si sono in qualche modo stabilizzati. E adesso, come racconta Gianni Santucci in queste pagine, le cose sono cambiate. Ci spostiamo a Firenze, dove il Fatto Quotidiano va su una vicenda che insomma circola da qualche giorno e pone qualche preoccupazione in merito alla privacy. A pagina 11 si racconta di Firenze. Che cosa succede a Firenze? A Firenze, Firenze sta diventando la città più videosorvegliata d'Europa. Siamo arrivati a 1000 telecamere e si prevede nei prossimi mesi di arrivare a 1200. Piazza Indipendenza, racconta Giacomo Salvini a pagina 11 del Fatto Quotidiano. Vigilia dell'ultimo dell'anno, i fiorentini che passeggiano per il centro città notano che l'uomo con l'elmetto giallo, che dall'alto di una gru maneggia un lampione, non è un operaio qualsiasi. È il sindaco renziano Dario Nardella. Non è la prima volta che il primo cittadino decide di montare in prima persona un impianto di illuminazione pubblica per le strade delle città, eppure questa volta è un'occasione speciale che merita di essere immortalata anche sui social, perché sta installando la millesima telecamera di sicurezza con l'obiettivo di arrivare appunto a 1200 entro l'estate. Ci sarà un nuovo software che controllerà tutto questo, avrà l'obiettivo di migliorare gli strumenti di indagine sui reati di strada, insomma provvedere alla sicurezza. E dallo stesso comune dicono a Firenze ci sarà un unico grande fratello che controllerà tutta la città, fanno sapere da Palazzo Vecchio. La piattaforma si chiama Piattaforma Inquiris. Secondo il sito ufficiale dell'azienda che lo produce, il software permette di gestire e monitorare i diversi sistemi di sicurezza, videosorveglianza, antintrusione, antincendio, controllo accesso, stazioni meteo e tutti i sensori disposti sul campo gestibili tramite protocollo IP. Ma c'è questo snodo del garante della privacy che a breve dovrebbe dare un'indicazione e far capire se tutto questo è effettivamente possibile. Fronti di preoccupazione dal lato della privacy che arrivano da Firenze. E siamo a Firenze, restiamo a Firenze per una vicenda che vi avevamo già raccontato nella rassegna stampa della scorsa settimana, ed è quella della professoressa che è entrata in una classe alle scuole medie, in seconda media, dicendo: basta parlare di Liliana Segre, questa qua si vuole fare solamente pubblicità. Ebbene, arrivano i primi provvedimenti, come un po' avevamo previsto. Non venga a scuola, il preside scrive alla prof, lo troviamo nelle pagine di Firenze della Nazione. Già a partire da oggi potrebbe non presentarsi a scuola la professoressa d'inglese della scuola media Mazzanti di Coverciano, che nei giorni scorsi ha detto in classe che Liliana Segre starebbe solo cercando pubblicità con le sue iniziative per far conoscere la Shoah. L'insegnante ha ricevuto una mail dal preside Arnolfo Gengaroli, il quale stamattina andrà all'ufficio legale dell'ufficio scolastico regionale per istruire una pratica di sospensione urgente dal ruolo di docente. Adesso posso informalmente invitare la collega a non presentarsi a scuola, le ho inviato un'email in merito, questo per motivi di opportunità. Oggi appunto la professoressa dovrebbe tornare a lezione e vedremo se lo farà, perché per il momento è solamente un invito informale, la pratica di sospensione è stata comunque avviata. Il Quotidiano Nazionale apre però, appunto, come si diceva, su quella che viene definita la strage dei pedoni, un morto ogni 16 ore, siamo a pagina 8, il pezzo lo firma Rita Bartolomei, e raccoglie i dati ancora una volta dell'ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale, che manda avanti i numeri come sempre. La chiama con una provocazione vecchia pandemia, per dire che sono numeri shock ma non fanno rumore. Un pedone morto ogni 16 ore. 46 a gennaio, 26 uomini e 20 donne, ragazzi e nonni. 20 sono gli over 65 tra questi. Una strage. Nella statistica del mese scorso è soprattutto la verifica sulle cause dei mortali a impressionare. Ben 19 investitori infatti erano ubriachi, drogati o pirati della strada. E anche così spiega Giordano Biserni, che è il presidente dell'ASAPS, resta un'analisi molto prudente. Come minimo il numero di chi guidava dopo aver bevuto alla fine risulterà il doppio. E così, questi sono i dati. 609 i pedoni uccisi nel 2018, un più 1,5% rispetto all'anno precedente, rispetto all'ultimo dato ufficiale disponibile. Storia carina quella che arriva da Polizzi Generosa nelle Madonie, dove il primo cittadino Giuseppe Loverde, che insomma è uno abbastanza noto alle cronache perché si fa sentire spesso, adesso ne ha inventata un'altra delle sue per richiamare l'attenzione sullo spopolamento dei borghi e sulle difficoltà dei piccoli comuni ad avere personale che effettivamente gli serva. In questo paese che ha dato i Natali allo stilista Domenico Dolce, all'attore Vincent Schiavelli, alla famiglia di Martin Scorsese. Ebbene, cosa fa? Va a fare lui il custode per tenere aperto il museo nel fine settimana. Si definisce berlingueriano, ha 61 anni, al suo quarto mandato. Nei weekend con i suoi assessori lavora come custode guida dell'ultimo della rete dei musei aperti a Polizzi, racconta pagina 19 di Repubblica Alessandra Ziniti. Di cosa dovrebbe vivere un paese come Polizzi Generosa se non della sua arte, della sua cultura, della sua tradizione popolare, dice. Abbiamo la fortuna di avere concittadini famosi che tengono alto il nostro nome in tutto il mondo. E poi la burocrazia non è in grado di farmi tenere aperto un museo nel fine settimana, si chiede Giuseppe Loverde. Pausa. "24 Mattino". Paolo Mieli, direttore, ci sei? Buongiorno. Eccomi, ci sono tutto tuo. Sei in piedi? Sei in piedi per l'inno? Sì. Perché ormai abbiamo lanciato la candidatura venerdì scorso. Paolo Mieli alla presidenza della Repubblica, quindi Paolo, non ti puoi sottrarre se la patria chiama. Sono pronto. Sei pronto. Hashtag Mieli Presidente. Se volete, mandate messaggi su WhatsApp, anche audio, a sostegno della candidatura. Manca qualche anno, però ci possiamo arrivare. Allora, no, caro, ma io pongo una sola condizione: Spezia, sì, presidente del PD. Ce l'avevamo detto. Però una posizione politica non mi piace. Vorrei un ruolo istituzionale. Un ruolo istituzionale, segretario generale del Quirinale, una cosa di questo genere. Accolto. Allora, caro Paolo, buongiorno. Dunque, iniziamo la parte centrale della nostra rassegna stampa. Inizierei dal coronavirus, che ovviamente le prime pagine dei quotidiani sono ampiamente dedicate a questo, aperture su questo successo italiano allo Spallanzani di Roma. È stato isolato il virus. Non è il primo team mondiale a farlo, certo è uno dei primi, comunque no, l'hanno già fatto Francia, Australia, Cina, però insomma è sicuramente un passo importante. Importantissimo. Lo Spallanzani fu fondato nel 1936, in epoca fascista, ed è un istituto che serve per fare diagnosi, cure alle malattie infettive. Ma la cosa che più ha colpito tutti è che sono tre donne, facciamone i nomi: Concetta Castelletti, che ha 56 anni ed è di Ragusa, Francesca Colavita, che ne ha 31, è di Campobasso, e Maria Rosaria Capobianchi, 67 anni, di Procida. Tre donne del sud. Una di loro ha raccontato che guadagna 1.500 euro al mese. Ecco una delle risorse, uno dei tesori dell'Italia, donne che fanno un sacrificio. Ci sono interviste a queste signore e sono interviste che fanno impressione per i loro ritmi di lavoro, praticamente la famiglia non esiste, vivono a contatto con questi virus. E siccome non è la prima volta, ricorderai che la più grande virologa italiana, si chiama Ilaria Capo, è stata costretta a emigrare negli Stati Uniti, non solo perché, come tutti gli studiosi, spesso sono costretti ad andarsene a studiare all'estero, ma lei è stata parlamentare. A un certo momento fu fatta contro di lei un'inchiesta farlocca, come se fosse una trafficante di virus, che si è risolta nel nulla, ma nel frattempo le ha danneggiato la vita. E l'America, che è più l'est, se l'è presa e l'ha messa alla guida di un team di ricerca in Florida. Ecco, sono donne maltrattate, misconosciute, e hai ragione tu, non sono le prime ad aver isolato questo virus. Però, come racconta Margherita De Bacca sul Corriere della Sera, l'hanno fatto in 24-48 ore. E la Cina ci ha ringraziato, perché questo procedimento ha fatto fare un salto alla preparazione dell'antidoto. Cioè, fino a ieri, ricordai, dicevano ci vorrà un anno, tre anni, quattro anni, mentre invece così in qualche mese lo si potrà avere. Questo induce tutti all'ottimismo. Vedrete oggi sui giornali titoli meno enfatici, meno allarmisti. Tra l'altro stanno per tornare gli italiani che erano residenti tra poco, se non sbaglio dovrebbero atterrare tra pochi minuti. Uno ha la febbre, rimane lì, però la cosa, non dico che sembra rientrata, ma non c'è più quell'allarme per cui sembrava che entro pochi giorni avremmo avuto migliaia, centinaia di migliaia o addirittura milioni di infettati. Insomma, non è rientrata, ma è stata messa almeno sotto controllo. Non è indomabile questo virus. Tutti i giornali danno. Sì, da segnalare anche, segnalo per come spunti di pura cronaca, no? Anche un po' il racconto di questa psicosi che riguarda ovviamente la popolazione cinese che normalmente vive in Italia. Pagina 4 della Stampa, Chiara Baldi e Nicola Pinna raccontano questo: adesso facciamo scorta di cibo, temo ci vietino di fare la spesa. È un giorno a Milano, nella Chinatown milanese, poi noi cinesi d'Italia in autoquarantena per responsabilità, raccontano Alessia Marani e Camilla Mozzetti invece da Roma. Quindi questo anche il quadro, l'altro quadro del coronavirus. Le questioni politiche, Paolo, invece hanno a che fare con le tensioni interne alla maggioranza sulla prescrizione. Ieri si è celebrato l'appuntamento, il primo appuntamento, l'assemblea di Italia Viva, e Renzi su questo fronte si è fatto subito sentire. Sì, com'è la situazione? Come è noto, il 1 gennaio è scattata questa legge che prevede uno stop alle prescrizioni, cioè non esistono più. Dopo il primo grado di giudizio il processo continua all'infinito, e questa legge era stata subordinata a un'altra legge che però rendeva più veloci i processi, perché se no stop alle prescrizioni, processi all'infinito, vuol dire che uno dopo il primo grado può ritrovarsi pure a 1000 anni senza avere, conoscere la sentenza. Il PD ha posto la questione e Renzi adesso, come tu hai detto, l'ha cavalcata pesantemente, nel senso che ha lanciato quasi un ultimatum al ministro Bonafede dicendo: guarda, o tu la cambi radicalmente oppure noi voteremo contro. E siccome noi siamo decisivi e facciamo cadere anche il governo su una cosa come questa. Il messaggio è diretto anche a Conte, perché, come racconta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, Conte deve provare a fare un'ultima mediazione, ma si ha l'impressione che i toni sono più accesi, e in questa occasione Italia Viva, il gruppo di Renzi, sembra più deciso a dare una spallata, anche perché è spuntata un'altra notizia curiosa, sì. Ce l'ha sempre su Corriere della Sera Maria Teresa Meli, che in Puglia, come tutti sapete, a fine maggio ci saranno elezioni in altre 6 regioni, sì. È l'ultima di questa tornata importantissima, e in Puglia, dove c'è un governatore forte del PD, Emiliano, la ministra Bellanova ha fatto capire che è disponibile, che è di Italia Viva, cioè del gruppo, sì, di Renzi, che ha fatto capire che è disponibile a candidarsi lei, che loro con Emiliano non vogliono assolutamente correre. E sì, siccome anche un altro ex PD, Carlo Calenda, è contro Emiliano, sì, per tutte le vicende note del suo comportamento sull'Ilva e via dicendo, beh, insomma, qualcosa si sta mettendo in movimento ed è qualcosa di non felice, sì, per la stabilità del governo. Sì, ma perché non, è una non sarebbe una candidatura debole quella di Teresa Bellanova, ovviamente, una candidatura così tanto per metterla, ma sicuramente però, una candidatura forte. Però permettimi di dirti che se si presenta da una parte Emiliano e da una parte Bellanova, sono due candidature a perdere, proprio perché non è, sì, debole. Certo. Quella del centrodestra, che presumibilmente sarà l'ex governatore Fitto che corre per Fratelli d'Italia, sarà molto avvantaggiata. Due giganti deboli fanno, sì, un nano insieme. Sì, tanto che il Fatto Quotidiano scrive: Renzi lavora per Salvini, è il titolo di apertura. Traffico. Sì, i due giornali più antisalvinari, che sono il Fatto, sì, e il Foglio dà addirittura un numero monografico di consigli su come battere Salvini. E il Fatto Quotidiano, come hai appena ricordato, si irrita molto per questo atteggiamento, direi, anche perché per il Fatto Quotidiano la legge sulla prescrizione deve rimanere così com'è, e tutte queste sono ubbie da malfattore, e tutti, sia al ministro Bonafede che al Fatto Quotidiano, rimproverano a Renzi di essere troppo amico di Denis Verdini. Sì, sì, dice, guarda, sì, non siamo più ai tempi di Denis Verdini, Renzi. E, sì, Verdini, come noto, la cui figlia, sì, è fidanzata. È la compagna, sì, è la compagna di Matteo Salvini. Andiamo al traffico, va. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta "24 Mattino". Oh, visto che siamo sulla politica, caro Paolo Mieli, andiamo sulle tue adorate sardine, le quali sardine si devono difendere da un attacco per essere stati fotografati 4 fondatori a Fabbrica, il centro di formazione di Treviso, dove c'è Oliviero Toscani. Sostanzialmente ci sono anche i Benetton, che in questo momento, come sappiamo, sono nell'occhio del ciclone per la vicenda di Ponte Morandi, la possibilità di revoca della concessione a Società Autostrade. E quindi oggi il Corriere della Sera a pagina 13 dedica addirittura, no, una mezza paginata alla difesa. Sì, le stesse sardine si sono scusate di questa gaffe, sono state invitate, si sono fatte fotografare sorridenti, tutte allegre, felici, insieme a Benetton e a Oliviero Toscani. E ho l'impressione che avevo previsto che dopo la domenica vittoriosa in Emilia avrebbero continuato a essere sotto i riflettori. Loro avevano annunciato che si sarebbero un po' ritirate, avrebbero smesso di andare in giro per televisioni e giornali, però adesso devono stare molto attente alle gaffe, agli infortuni, perché la politica è piena di insidie, piccole insidie che lì per lì non si percepiscono e loro fanno, si espongono a grandi figuracce. Il brutto di questa cosa è che in questi giorni, il brutto per loro, per le sardine e per chi le segue, avevano lanciato un grande manifesto attraverso Repubblica, una pagina intera, annunci, Conte ci riceve, Zingaretti il giorno dopo sempre su Repubblica, stiamo parlando dell'altro ieri, e ieri aveva applaudito in modo molto vivace questo appello a Conte, Conte si preparava a ricevere, insomma una cosa in pompa magna. Poi questa scivolata sulla buccia di banana dei Benetton, per carità, è per quello che riguarda me, io penso che si possa benissimo andare a trovare Benetton e festeggiare, però loro devono stare attenti perché hanno certo un pubblico molto sensibile su questi temi. Ti porterei sui temi esteri, anche se in parte l'abbiamo già fatto col coronavirus, e sui caucus in Iowa, insomma l'avvio delle primarie democratiche, no? Per chi si opporrà a Donald Trump nelle prossime elezioni presidenziali di novembre. C'è spazio un po' su tutti i quotidiani a questa questione. Sì. Io consiglierei di leggere anche per il corredo informativo l'articolo di Federico Rampini su Repubblica, dall'Iowa a Washington, la sfida di Buttigieg ai Dem, io posso battere Trump, però tutti i giornali dicono, ne parliamo perché domani iniziano le primarie e poi martedì 3 marzo, esattamente da un mese, ci sarà il Super Tuesday, che è il martedì dove se ne fanno insieme moltissime, si capirà come si mettono. Tutti dicono che il favorito è Sanders. Ora viene una riflessione che si capisce dai giornali. Sanders è un candidato come Corbyn in Inghilterra, molto forte, molto di sinistra, molto sentito dalla base, però perdente, come è stato perdente Corbyn in Inghilterra. Il vero candidato forte sarebbe stato Biden, l'ex vicepresidente, però Biden è stato compromesso dall'iniziativa proprio dei democratici di fare questo, di provare a fare l'impeachment a Trump sul caso Ucraina. Biden, come è noto, ha il figlio che lavorava per l'Ucraina. E tutta questa vicenda, inutile diciamo, perché si sapeva in partenza che Trump se la sarebbe cavata, è stata percepita quasi come un fuoco amico su Biden, un'insidiosissima campagna che ha messo per settimane, mesi, Biden sotto i riflessori, come riflettori, come padre e figlio implicati in una storia dell'Ucraina, e oggi l'ha molto indebolito come candidato. Se presenteranno Sanders rischia di fare la fine di Corbyn, insomma gira e rigira questa iniziativa dell'impeachment a Trump, rischia di trasformarsi in un grandissimo favore proprio a chi? A Trump. Allora, ti porterei sul Sole 24 Ore, che ci riporta un po', no, con i piedi per terra quelli che sono i dossier del governo, a partire da questa nuova IVA che incrocia la riforma IRPEF e quindi tutto il grande tema del cantiere fiscale, che è stato lanciato la scorsa settimana proprio dal Sole 24 Ore, offrendosi anche come piattaforma, no, per questo cantiere della riforma del fisco. Ed è mi ha colpito molto, tra i pezzi che ho trovato sul Sole 24 Ore, questo di Laura Cavestri a pagina 11, che collega il cambiamento climatico al valore delle case. Cioè sempre più spesso gli algoritmi si basano anche sulle temperature alte, sulle alluvioni, eccetera, eccetera, per decidere un po' quanto vale una casa. Guarda, l'articolo di Laura Cavestri sul Sole 24 Ore è stato il primo che ho letto stamattina, perché tutti i possessori di case oggi dovrebbero leggere e dare un'occhiata a questo articolo, perché racconta quali sono gli algoritmi relativi al climate change che collegano gli effetti della crisi ai valori degli asset in calo nelle aree fragili, e dice servono 80 miliardi in 20 anni per edifici a impatto zero. Esistono questi algoritmi come il 427 che sfrutta i dati climatici globali per fornire valutazioni del rischio di livello attività al pericolo di clima fisico, o che analizzano l'esposizione di 20.816 spazi commerciali e 16.108 uffici di una serie di città europee, e pone Venezia e Milano rispettivamente al quinto e sesto posto sul rischio alluvioni. Ora, Venezia capisco, è noto, sì, perché Milano, devo studiarmi meglio il rapporto. Sì, colpisce un po' di più. Colpisce. Rischio alluvioni, sì, a Milano, voglio capire bene come è fatto esattamente questo algoritmo. Però lo spunto c'è, mi pare, ed è interessante. Senti, Paolo, prima di chiudere, che abbiamo ancora 40 secondi, so che sei rimasto colpito dalla festa per gli 80 anni di Fausto Bertinotti. Ieri grandi articoli sui giornali, soprattutto su Repubblica, per questa festa per gli 80 anni di Fausto Bertinotti. Sembra, non ho visto bene sui giornali, ma sembra che sei stato invitato anche tu alla festa per gli 80 anni. No, come stavolta presidente, no. Stavolta presidente no, del PD. Questa volta no. Però invece... oggi su Repubblica la moglie di Bertinotti replica dicendo che la notizia che è stata data sempre su Repubblica che agli 80 anni era invitato Berlusconi è una notizia falsa, dice che Berlusconi non è invitato, e non è vero che un famoso ristoratore di Roma sia stato incaricato di fare il catering, ma mi ha colpito il modo in cui smentisce, perché dice non è stato invitato né Berlusconi né Prodi, perché noi abbiamo invitato solo i nostri amici. Ora è un modo... Povero Prodi, non c'entra niente, nessuno ha fatto il nome. Però è stato messo nel mischione, per così dire. Messo nel mischione, esattamente, dicendo. E allora potevano mettere, non abbiamo invitato né Berlusconi, né Prodi, né Spezia, nemmeno Mieli. Adesso GR24, ci sentiamo subito dopo. Grazie Paolo, a mercoledì. Grazie ciao. A voi.